Gialli di Campagna, 38esima trasmissione dedicata agli emigrati. Sagra, visioni d'altri tempi, meno dinamici ma più sereni dei nostri, quando era concesso ai nostri nonni di abbandonarsi al ritmo della staiere. Danza dalle garbate movenze compendia nella sequenza degli inviti e delle repulse l'intero poema dell'amore. Nata in mezzo ai monti, come dice il suo nome, scese della Stiria in Friuli, affidata alla fisarmonica degli emigrati, innestandosi all'antica Furlana. Entrò nei focolari d'inverno tra il fiorire degli idilli, dilagò in carnevale nelle fumose sale dei paesi, respirò all'aperto sotto le pergole odorose di viti in fiore. Il fiore e il cuore sono le rime ricorrenti nell'arte popolare. S'assise da padrona sui rustici tavolati, brears, in cerchio l'amoroso consenso di spettatori che ne assecondavano il motivo col canto. No bali stupieri, sì sì che io bali, le un piezco ti chiali, ninin tu se smiò. Poi ritmi più serrati sul tema immutato delle villotte. I carnici lasciano gli avari monti nativi per cercare il pane nella bassa. Tempo di polca. Venin giù i carniei dei carnie, venin giù batinti il tac. Una pipe te sacchete, senza un pregul di tabacco. La villotta nel testo si adatta a tutti i ballabili tradizionali, polka, valzer, mazurka. Se non che al repertorio comune si aggiungono alcune danze da vincente effetto scenografico.